Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Mercoledì 15 settembre, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutti su Liberi Dentro Eduradio TV, la nostra trasmissione che parla un'ora al giorno, tutti i giorni, tra carcere e città. Cominciamo con la nostra rassegna sociale e rassegna stampa con Antonella Cortese. Ciao Antonella. Ciao Caterina, buongiorno a tutti. Allora, la notizia che vi sto raccontando da qualche giorno e l'avremo per tutta la settimana è l'indagine esplorativa pubblicata da Repubblica Ragazzi Dentro sulla delinquenza giovanile. Abbiamo parlato ieri e nei giorni scorsi del fatto che, nonostante la narrazione allarmistica dei media in Italia, i tassi di criminalità giovanile sono tra i più bassi d'Europa in Italia, del fatto che nonostante le tante spesso insormontabili difficoltà, il sistema delle misure alternative alla pena per i minori in Italia funziona. E infine, dato sorprendentissimo che vi ho lanciato ieri a chiusura, i dati della criminalità nelle città italiane registrano i dati più alti di criminalità minorile a Bologna. Caterina, tornando a Bologna, ho visto che hai usato i dati relativi al 2019. C'è un motivo specifico? Ma allora, l'indagine pubblicata su Repubblica ha usato questi dati perché durante la pandemia c'è stato un calo complessivo dei reati, cosa che poteva in qualche modo falsare la percezione delle tendenze di fondo in questo campo. Ma facciamo riferimento confrontandoli anche ai dati del periodo precedente, mi riferisco dal 2004 al 2015. Se si prendono queste statistiche elaborate da Maria Di Pascale nel saggio La criminalità minorile nelle città metropolitane in Italia, viene ampiamente confermato che c'è stato un aumento di indice di criminalità minorile violenta. Bologna è la prima città, seguita da Torino, Genova, Milano e Firenze, mentre la prima città meridionale dove i giovani delinquono di più è Catania. Segue Napoli al nono posto, e Reggio Calabria all'ultimo e Roma è sotto la media. Caterina, stiamo sfatando tanti miti oggi, ma levami una curiosità: quali sono le nazionalità dei minori che delinquono? Ecco sì, appunto, facciamo un po' di debunking di false notizie. Se prendiamo le statistiche degli adulti stranieri in Italia, riscontriamo un dato chiaramente diverso rispetto ai minori, perché i minori che delinquono, stando ai dati del 2018, sono il 70% italiani e il 30% stranieri. Addirittura tra il 2004 e il 2015 erano il 75% italiani. È chiaramente un dato che dimostra che c'è un po' di somiglianza con i dati degli adulti, ma non troppa, nel senso che i minori stranieri infrangono le leggi un po' meno rispetto agli adulti stranieri. E se il reato degli adulti per il 40% è traffico di droga, per i minori stranieri il reato più frequente è il furto. E per quanto riguarda il genere e l'età, cioè chi è il minore che delinque e quanti anni ha, per essere precisi? Allora, oltre l'84% sono maschi e meno del 16% sono femmine. Il 30% degli imputati maschi ha tra i 14 e i 15 anni e il 69% tra i 16 e i 17 anni. Il reato in cui l'incidenza delle femmine è maggiore è il furto, in particolare tra le ragazzine straniere, in questo caso la percentuale le coinvolge fino al 25%. Ma ci sono naturalmente altri reati per cui i giovani sono condannati e perché per cui questi giovani entrano nel circuito penale. Per esempio, il 17% sono reati contro le persone, mi riferisco ad aggressioni, risse, ferimenti, omicidi. Poi ci sono il 62% furti e rapine, mentre il restante 21% sono reati connessi allo spaccio. Ma va ricordato che a proposito del problema droghe, secondo una ricerca ESPAD che studia i comportamenti d'uso di alcolici, tabacco e sostanze psicotrope legali e non, nel 2016 ben il 32,9% degli 800.000 studenti italiani intervistati tra i 15 e i 19 anni ha dichiarato di aver provato almeno uno degli stupefacenti presenti sul mercato. Quindi, per dirvi che il problema delle droghe va affrontato culturalmente, cioè non è una cosa che coinvolge solo i minori che delinquono. C'è poi una piccola parte di minori che è stata coinvolta in associazioni di stampo mafioso, di cui la quasi metà si riscontra a Napoli. Beh, è molto interessante quello che stai dicendo e anche un po' dell'incredibile, perché appena si va oltre il dato numerico appare proprio evidente l'originalità, la coloritura della questione criminale minorile in Italia, no? Eh sì, perché per concludere un po' la nostra indagine, anche oggi sono dati che confermano che anche per ciò che riguarda la criminalità minorile, in Italia siamo di fronte a una realtà spaccata con caratteristiche fortemente differenziate tra nord e sud. Al nord e al centro si delinque molto di più, è una criminalità mista tra stranieri e italiani, mentre al sud si delinque meno ed è principalmente sono minori autoctoni, ma su questo torneremo domani. E adesso le radici catieni dei Sud Sound System e ci rivediamo tra pochissimo. Se non te scerri mai delle radici catieni, rispetti buru guide dei paesi lontani. Se non te scerri mai de due de castaieni, dai più valore alla cultura catieni. Siamo salentini dell'umunno cittadini, radicati all'imessavi culli greci e bizantini, uniti in ciascun stile o c'è culli giamaicani. Dimmi di te due de cosa vieni. Se non te scerri mai delle radici catieni, rispetti pure mai dei paesi lontani. Se non te scerri mai de due de cagieni, dai più valore alla cultura catieni. Siamo salentini dell'umuno cittadini, radicati all'inestavi, culli greci e bizantini, uniti in trastu stile oce, culli giamaicani. Dimmi di te due de castafieni. Yo, è il mio dello salento e qua non può non parlo dialetto, yeah. E non vede filo no, che l'italiano non lo saggio, che se mi metto con rifletto parlo lo giamaicano scitto, perché l'importante è che sai un poco di tutto, anche se di tutto abbiate me ne butto, ma se una cosa mi interessa sono capace pure mai visto. Se devi tu che io faccio mi metto dai faccio c'è posto, perché tu per essere io che decido del mio stesso, che la vera cultura è cui sai vivere, cubbi e si testo, ma sempre senti che la vita è dura, è meglio sai amare pure quando te pare che è impossibile. Me la difendo, la tengo uscita con l'ucore, la cultura mia rappresenta quello che è stato e che avvenire in ciascun mondo, a rivoluzione più i valore ci parla diverso e di diverse de colore, te ne le hanno tutto pure la voglia di amare, così che tanta gente a faccio modo sta a reagire, te ne le hanno tutto pure le ricche per sentire, ci piange e chiede aiuto per i torti che sta a subire, te ne le hanno pure la terra del sottali piedi, se cattano tutto qui giù a cui dieci tieni, ne dispiace per tutto qui giù canne stagliati, ma stiamo ancora qua e qua non ne li mu mai sciuti. Chiaro, moi, moi, moi. Se non te scerri mai delle radici catieni, rispetti pure umide dei paesi lontani, se non te scerri mai dei due dei cagieni, dai più valore alla cultura catieni. Siamo salentini dell'umuno cittadini, radicati all'inestavi, culli greci e bizantini, uniti in trastu stile oce, culli giamaicani. Bentornati, dopo la pausa musicale siete sempre su Liberi Dentro e Eduradio TV, il vostro programma quotidiano di aggiornamento tra carcere e città. Continuiamo la nostra rassegna sociale parlando di Afghanistan, vero Antonella? Sì, oggi Caterina parliamo di Afghanistan, se ne parla tantissimo in questo periodo, ma io vi voglio raccontare una storia che è quella del salvataggio delle calciatrici di Herat. Vi racconto questa storia in due parti, una parte oggi e una parte domani, e diciamo che tutto comincia con un messaggio a Stefano Liberti, un giornalista, su Facebook. Hi sir, we are in trouble, can you help us? Questo messaggio viene dall'Afghanistan, appena caduto nelle mani dei Taliban, ed il mittente è Susan, la capitana del Bastan Football Club, la squadra di calcio femminile proprio della città di Herat. Perché Stefano Liberti ha ricevuto questo messaggio? In realtà aveva conosciuto lei e le sue compagne nel 2016, quando era andata in Afghanistan insieme a Pamela Cioni del COSPE, a vedere alcuni progetti sostenuti dalla ONG di Firenze. E aveva incontrato anche le calciatrici, una decina di giovani tra i 16 e i 20 anni, accompagnate dall'allenatore, un signore di circa 45 anni. Le ragazze hanno cominciato a parlare di calcio, si sono entusiasmate della loro formazione, di quanto si sentissero forti. Insomma, erano molto molto entusiaste e hanno dato a proprio Stefano Liberti un appuntamento alle 5.30 del mattino successivo. Ovviamente si sono meravigliati dell'orario, però le ragazze hanno detto ci alleniamo presto per non dare nell'occhio, proprio per giustificarsi un pochettino ridendo di fronte appunto alla necessità di non esporsi. E queste ragazze si allenano nel campo dei loro colleghi calciatori? Caterina, no, quel giorno le ragazze si allenavano su un quadratino esterno al campo proprio per non rovinare il tappeto d'erba destinato ai loro colleghi maschi. Erano vestite da cima a piedi, come puoi immaginare, magliette lunghe, calzamaglie a coprire le gambe, velo sulla testa. Però dicevano loro stesse che quello è un compromesso che devono fare per non urtare troppe sensibilità e per poter giocare in pace in fin dei conti. Però nonostante l'impaccio, immaginati, tutte vestite saltavano, correvano, si passavano palloni, facevano flessioni, il mister le incoraggiava tantissimo, ma intanto raccontava al giornalista la situazione disastrosa. La federazione non aveva i soldi per comprare gli scarpini, per esempio, e poi la loro attività era mal vista da gran parte della società. Lui aveva ricevuto varie minacce, l'allenatore, e telefonate di sconosciuti che lo insultavano. E poi aveva faticato tantissimo a convincere i genitori, perché i genitori non volevano mandarli a giocare. E invece, così catturato dalla loro gioia, dall'entusiasmo, nonostante i pericoli, lui ha voluto portare avanti questa battaglia e insomma portarle a giocare nel campo. E dice che in effetti era una storia così eroica che l'anno dopo decide di, sempre con il sostegno del COSPE, di tornare ad Herat e a girare un documentario su di loro. E questo contatto tra le ragazze e il giornalista Stefano Liberti è poi continuato oppure no? Caterina, come sai, il tempo e la lontananza poi diluisce un po' i contatti, infatti anche per lui è stato così, non sono stati assiduissimi, si sentivano un po' via Facebook, però pensa che loro comparivano sempre con nomi di immaginazione e figurine, icone strane per non essere riconosciute. Poi pian piano si sono sempre di più diradati i contatti, come succede, fino però al pomeriggio del 14 agosto, quando da Messenger arriva la richiesta di aiuto della capitana. Ovviamente dopo un primo sentimento di impotenza, che facciamo, siamo in Italia, non sappiamo come attivarci, comincia a prendere forma questa operazione che coinvolge i piani alti del Ministero della Difesa e degli Esteri, i carabinieri del Tuscania e i vari responsabili politici e una fitta rete di attivisti in Italia e in Afghanistan. E grazie alla segnalazione della deputata Lia Quartapelle e all'interessamento attivo di alcuni generali, il caso del Bastan viene inserito tra quelli da seguire con particolare attenzione. Quindi una bella storia di, diciamo, di attivismo sociale e politico. Mi sa che dobbiamo continuarla domani perché adesso non c'è tempo. E cosa ascoltiamo oggi, Antonella? Caterina, resto leggermente in tema perché vi propongo la canzone L'uomo nero di Bruno Risas. Ascoltatela, è molto bella. Hai notato che spesso dice che noi siamo troppo buoni e che essere tolleranti poi si passa per coglioni. Hai notato che gli argomenti sono sempre più o meno quelli, rubano, sporcano, puzzano allora, olio di ricino e manganelli. Hai notato che parla ancora di razza pura, di razza ariana, ma poi spesso è un po' meno ortodosso quando si tratta di una puttana. E tu che pensavi? Che fosse tutta acqua passata, che questa tragica misera storia non si sarebbe più ripetuta. Tu che credevi nel progresso e nei sorrisi di Mandela, tu che pensavi che dopo l'inverno sarebbe arrivata una primavera, invece no. E invece no. Hai notato che l'uomo nero spesso ha un debole per la casa, a casa nostra, a casa loro, tutta una vita, casa e lavoro, ed è un maniaco della famiglia, soprattutto quella cristiana, per cui ama il prossimo tuo, solo se carne di razza italiana. Ed hai notato che l'uomo nero si annida anche nel mio cervello, quando piuttosto che aprire la porta la chiudo a chiave col chiavistello, quando ho temuto per la mia vita seduto su un autobus di Milano, solo perché un ragazzino arabo si è messo a pregare leggendo il Corano. E tu che pensavi che fosse se tutta acqua passata, che questa tragica lurida storia non si sarebbe più ripetuta. Tu che credevi nel progresso e nei sorrisi di... Rieccoci a tutti i nostri ascoltatori, sempre bentornati su Liberi Dentro ed Uradio TV. È il momento dell'ospite, con me qui c'è Carla Iagnello. Bentornata su Liberi Dentro, ciao. Grazie, buongiorno a tutti e tutte. Come dicevamo, Carla, volto attivo non solo del volontariato, ma anche per la nostra trasmissione Eduradio, perché assieme ad altri giovani universitari avete partecipato già dallo scorso anno, siete state elementi redazionali con noi, con le rubriche Constitution on Air e Diritti al Punto quest'anno. E sono rubriche a tema di diritto, diritto costituzionale, ma parlacene un po' tu. Perché quest'idea anche? Perché l'interesse di parlare di diritto in carcere? Beh, allora, Constitution on Air nasce prima di tutto con l'interdizione di Ignazio, che ci ha, insomma, tramite il POGES, che aveva richiamato un po' di giovani universitari in questa avventura di fondare un laboratorio sul diritto e la Costituzione. Riprendo proprio le sue parole, diciamo che l'obiettivo di questi laboratori era quello di parlare di legge a chi in fondo la legge l'aveva violata. E quindi abbiamo cominciato questo percorso quando ancora non c'era il problema del Covid e l'obiettivo era quello di entrare con i ragazzi, parlare della Costituzione italiana, ma non solo, anche, diciamo, con uno sguardo sulle costituzioni soprattutto del Medio Oriente, e a poco di affrontare tutti i vari temi insieme, capire i limiti della Costituzione in carcere e anche in un certo senso come superarli nel proprio piccolo. Il Covid ci ha fermato, ma come appunto hai accennato tu, abbiamo riconvertito questo laboratorio in un laboratorio via radio. Con Constitutions abbiamo fatto numerose interviste a tanti, diciamo, soggetti di rilievo. È stato veramente un periodo molto costruttivo per noi ragazzi, e quindi affrontavamo ogni articolo della Costituzione accompagnato da un soggetto da intervistare. Constitutions poi muta in un certo senso in Diritti al Punto, dove comunque le tematiche restano più o meno sempre le stesse. Qui siamo stati accompagnati anche dalla figura del magistrato Maurizio Millo, che anche in questo caso, diciamo, per noi quasi tutti gli studenti di giurisprudenza è stato molto formativo avere una figura del genere accanto. E anche qui in sottorubriche abbiamo cercato di affrontare nel modo più dinamico possibile tematiche che non sappiamo essere troppo leggere, insomma, divertenti, però ci abbiamo provato. Secondo me ci siete anche riusciti, perché anche l'impatto, il modo in cui avete lavorato dall'anno scorso, molto più radiofonico, quest'anno vi siete messi proprio sulla piazza a condurre il programma, quindi è stato veramente molto bello. Tutte queste puntate, per i nostri ascoltatori, lo ripeto, le trovate sul nostro canale YouTube, Diritti al Punto, si chiama la rubrica, sono tutte numerate. Ma adesso un po' di musica e ci rivediamo tra poco. Piacere, mi presento, sono militanta, il mio laboratorio aperto a tutte le età, mi hanno chiamato qui per fare una lezione sulla costituzione. Anche se siamo piccoli, non stiamo zitti, perché vogliono distruggerci per leggi e diritti. 9, 19, 139 sono le cose su cui il popolo si muove. L'Italia è una repubblica, è pubblica e di tutti, anche di chi lo dubita. L'Italia è una repubblica. Articolo 1, prezioso più dell'oro, c'è scritto che ognuno un giorno avrà un bel lavoro. Articolo 9, lancia un messaggio, la repubblica tutela natura e paesaggio. Articolo 11, la bomba butta a terra, per questo l'Italia ripudia la guerra. Articolo 21, bello il 21, poter parlare liberi senza temer nessuno. Articolo 33 e 34, la scuola è di tutti e su questo non baratto. Comandi chi comandi e chi vuole comandare, prima deve passare per la carta costituzionale. 9, 19, 139 sono le cose su cui il popolo si muove. L'Italia è una repubblica, è pubblica e di tutti, anche di chi lo dubita. L'Italia è una repubblica democratica e la Costituzione a noi ci sta simpatica. Articolo 7, senti come pesa, l'Italia è sovrana e indipendente dalla Chiesa. Articolo 32, parole argute, la Repubblica cura tutti e tutela la salute. Rieccoci, bentornati dopo la pausa musicale, siamo sempre con Carla Iagnello. Ciao Carla. Ciao Kate. E stiamo parlando anche delle attività che fate come Poggeschi per il carcere durante il periodo che forse per chi è ristretto è il più duro di tutti. Sto parlando dell'estate, il periodo che abbiamo appena trascorso. Quest'anno, come l'anno scorso, avete fatto l'estate d'Ozza. Parlacene tu, che cos'è? Allora, diciamo che l'estate d'Ozza è un periodo in cui, più o meno di una settimana, l'associazione decide di entrare in carcere proprio per una settimana, 7 giorni di fila, per cercare di mostrare la propria presenza anche in estate. Quest'anno ci siamo riusciti, quindi nonostante il Covid, sia per, diciamo, eravamo tutti tamponati, alcuni vaccinati, quindi ci è stato concesso l'ingresso da parte dell'amministrazione, e i laboratori si sono svolti dal 19 luglio fino al 24, e precisamente mi sono occupata del laboratorio che prendeva sempre il nome di diritti al punto, però è stato un bel percorso perché, diciamo, l'obiettivo di quei giorni era quello di creare un nostro stato, quindi ogni giorno i ragazzi hanno fatto una scelta tra la forma di stato, quindi tra monarchia, stato assoluto, repubblica, stato socialista, per poi passare alla scelta tra lo stato se laico religioso. Il terzo giorno abbiamo parlato dei diritti, il quarto dei doveri, il quinto addirittura abbiamo fatto i ministri del nostro stato, quindi ci sono stati appunto, ogni ragazzo si è preso un ministero, chi è diventato ministro del lavoro, chi ministro dell'ambiente. Diciamo, è stato un vero e proprio esperimento sociale, da questo esperimento sociale è nata la Repubblica dell'Utopia, e quindi diciamo che in quei 7 giorni abbiamo provato a parlare di tutte le tematiche che accompagnano la vita dell'Italia, quindi di provare a capire cosa avremmo fatto noi se avessimo avuto il potere. Lo sappiamo che noi cittadini tutti abbiamo il potere, il nostro potere si dimostra quando andiamo a votare, però se io fossi un ministro cosa farei domani al governo. Quindi è stato, diciamo, un esperimento molto, molto curioso, ci siamo divertiti, ci siamo confrontati, a volte abbiamo alzato i toni anche, però è stata una bellissima esperienza, mentre altri, Mauro e Gabriele, altri due ragazzi, si sono occupati di un laboratorio di musica in sala cinema, quindi abbiamo questi due laboratori dove abbiamo cercato di coinvolgere il più alto numero di detenuti possibile. Carla, accennavamo al fatto che l'estate è uno dei periodi di più isolamento e abbandono per chi è dentro, perché spesso proprio i volontari mancano, perché giustamente c'è chi va in ferie, chi non c'è in quel momento. E non solo l'estate, anche il periodo delle feste, pensiamo al Natale, tante feste che per chi è dentro vengono trascorse nella solitudine. Cosa bisognerebbe fare, secondo te, per far sì che questi momenti non siano più tali? È una domanda difficile, indubbiamente, perché io penso che in carcere quello che aiuti di più sia comunque sempre la presenza dell'esterno, quindi la presenza dei volontari, il loro volto, la loro, in un certo senso, compagnia, che sappiamo non può essere neanche lontanamente paragonabile a quella che è la compagnia dei familiari, indubbiamente, però a volte dei volti, dei volti esterni possono aiutare un po' ad addolcire quella che è la situazione quotidiana. Indubbiamente dobbiamo cercare di rendere questi periodi che hai detto tu il più brevi possibili. Sarebbe bello un giorno provare a fare a rendere quelle che possono essere ad esempio le feste natalizie meno dure di quello che sono in realtà per i ragazzi e le ragazze della Dozza, con degli eventi, con delle attività extra in quel periodo, con semmai i volontari che sono presenti in quel momento a Bologna. È difficile, però sappiamo che con la volontà si può fare sempre tutto. Prima cosa, adesso speriamo veramente da settembre di poter esserci tutti dal vivo con le nostre forze per veramente rendere il tempo della qualità migliore possibile. E allora, per chi ci sta ascoltando in questo momento e magari desidera diventare volontario come te anche per l'associazione Poggeschi, scrivete a infocarcere@centropoggeschi.org e io ti ringrazio Carla e un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ciao, alla prossima. This morning, smile with the rising sun. Three little birds beat by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying, this is my message to you, woo-hoo. Singing, don't worry about a thing. E anche oggi ci salutiamo dopo aver ascoltato una voce del volontariato del Poggeschi, Carla Iagnello. La nostra rubrica a seguire, se ci state ascoltando sull'EPI da ore 13.30 e con l'Equipe Sanitaria, mentre ore 17 su Teletricolore e sempre alle ore 6.30 del mattino su Radio Città Fujiko. Noi vi salutiamo, vi ricordiamo di iscriverci, redazione liberidentro@gmail.com e un saluto da me, da Antonella e da Enea Flacco al montaggio di queste puntate. A domani, grazie. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.